Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Grande Max, grande Max. Ciao, ciao Rocco, ciao Rocco, ciao. Sei un autentico imbecille, perché per prenderti ma imbecille sarai tu, devi dire, ascoltami un attimo, fammi dire, Max, non fare il furbo, tu e Di Preti avete lanciato verso i ragazzi, per farli di conoscere i ragazzi giovani come fare il porno, cocaina. Ma che cazzo dici? Io non mi sono mai grato in vita mia, sapere, ma ritirati. Hai la demenza senile, ma che cazzo stai dicendo? Max, che cazzo stai dicendo? Ma non permetterti di pagare il mio nome così, vecchio. Ma vai a cagare, ma non dire stronzate. Non dire stronzate. Non dire stronzate. Le ragazze che recluta lui, che non ha nessuna storia e nessuna produzione, gli promette di fare le star fino a quando fa la scena con lui, poi sono, cadono nel dimenticatoio. Ma questo vai a cagare, che le ultime ragazze le ho lanciate qui, io, e se non ci sono io tu neanche lavori. Vai a cagare, ma che cazzo dici? Da me. Io sono comunque vecchio, hai ragione, questo non ti posso dar torto. Ho un solo problema, il cazzo mi tira sempre, che devo fare? Però, ma per forza, con tutto il Viagra che ti prendi, è ovvio, con tutto il Viagra che ti prendi, è ovvio. Vabbè, gioca. Cruciani, se io volevo sputtanarlo questo ragazzo, perché a 26 anni non mi va, ho almeno 10 ore di materiale a cazzo moscio. Se lo voglio sputtanare, vai a vederti i miei video. Vecchio. Nonno. La telefonata sarà registrata per garantire la qualità, il decoro e la correttezza dell'organizzazione e dei contenuti dei programmi di Radio 24. Invita l'amichetto tuo lì davanti, si sceglie la donna, da te in radio, voglio vedere se hai coglioni, si sceglie la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni senza denti con la dentiera e me la inculo e mi inculo pure lui, me lo inculo insieme alla vecchietta. Poi, ma fai schifo, senti un attimo. Grande Max. Ciao Rocco. Lo scontro al vertice, caro David. Riascoltato è ancora peggio. Riascoltato, ero in imbarazzo io. Cioè, perché mentre tu fai la trasmissione non ti rendi conto, ma riascoltare, e qui vai nel penale. Ma quale imbarazzo? No, è imbarazzante. Era imbarazzante. Riascoltare, mi prendo una vecchia la me. Ma una cosa incredibile. Perché quello è in grado. Sì, ho capito Rocco, il senso. Lui dice: io sono un professionista. Abbiamo capito. Io dici: sono un professionista anche con una. È malato, anche è un'immagine lui, giustamente. Agghiacciante, posso dirti, è un'immagine agghiacciante. Dai, bisogna dirle le cose, perché sennò immagine agghiacciante. L'idea che dice Giuseppe, why a man, chiama in studio una vecchia, ma lui lo diceva seriamente la sfida, certo. Una cosa. Chiama in studio una vecchia di 90 anni stentata. No, abbiamo capito. Era per far capire che lui è un professionista. Abbiamo d'accordo. Già ricevuto diverse adesioni. Ora io continuo, ripeto, vecchia, non necessariamente di 90 anni. Adesso ci manca, diciamo... ti ricordi Villaggio cosa disse in una memorabile trasmissione, ecco. Si chiamava Radio Belva. Ecco, però. Dai 75 in su. Silenzio la vecchia. Dai 75 in più. che sia disponibile a fare sesso con Sir Rocco Siffredi. Però deve essere anche un po' sdentata. Perché se hai i denti tutti a posto, no. Cioè, se hai i denti a posto, non esiste. Naturalmente, non esiste. Mi pare un attimo idea. Naturalmente, ma lui, quando si parla di televisione, di eventi, naturalmente mi inserisco. Naturalmente, nel caso l'adorabile vecchina avesse tutti i denti a posto, saremo noi con la produzione a tirargli un grandioso cazzotto in bocca per spaccarle tutti i denti. E così la signora sarà pronta per la trasmissione. Ma Rai 2, questo format Siffredi scopa la vecchia, non l'hanno accettato. C'è il Vaticano, naturalmente rifiutano tutto ciò che è realtà, tutto ciò che è vita. Immagino che scusi Freccero, lei l'ha proposto subito ieri, naturalmente un format al giorno, due tre format al giorno. La mia fabbrica creativa naturalmente era già al lavoro per produrre il sequel di questo di questa idea geniale. Stavo per dire format, la parola inglese ormai è entrato dentro di noi naturalmente. E allora dunque la proposta qual era? Ci stiamo lavorando naturalmente, nel corso della serata daremo degli aggiornamenti eccezionali, cioè, però su questo. Il titolo è Rocco scopa la vecchia, più o meno lungo dai. Che titolo è? Lungo, basta semplicemente scopa, dai, è una parola sola in televisione, lungo, didascalico, cosa spieghi, dai, basta una sigla in cui tu vedi immediatamente, naturalmente immagino la telecamera che parte naturalmente dal pube del nostro amico, naturalmente si apre così, naturalmente, e non devi scrivere, dai, non è la carta stampata, è la TV. Dai, lo sai niente. E poi c'è le vecchie che vanno, che si alternano. Naturalmente il cast di tutte queste vecchie malandate, naturalmente negli ospedali geriatrici italiani, naturalmente anche nei reparti di rianimazione, naturalmente. Ah, già c'è l'idea. Stiamo lavorando naturalmente, e si può anche elaborare quello che si chiama lo stupro della vecchia in rianimazione, naturalmente. È una cosa estrema, ma naturalmente è accaduto, naturalmente se leggete i giornali la cronaca lo dice. No, ho capito che c'è. Dai, io non lo voglio fare, dai. Ma certo che non lo voglio fare. Dai, il codice etico, hanno detto la Rai. Il codice etico, ma che cos'è? Ma la TV non è etica, la TV è spettacolo, naturalmente. Gide, dai, la TV è etica, comprati un libro, no, se vuoi fare l'etica. Qui si fa naturalmente la storia della televisione. Beh, addio, sì. Dai, grazie. Spadalino, il sacchetto a perdere, vai. È tornato la notizia che è tornato Spadalino. Questa è. Il sacchetto a perdere è quello che ha capito che in Italia può fare di tutto e di più. Sì. Il sacchetto a perdere è quello che violenta le nostre donne. Il sacchetto a perdere è quello che vive alle spalle degli italiani. Questo è il sacchetto a perdere. Vai. L'Italia è diventato per questi sacchetti a perdere l'Eldorado, il paradiso terrestre. Il grave che sono allenati nelle palestre cattocomuniste. Chi sarebbero le palestre? Le palestre cattocomuniste. Comunque si sentiva male, evidentemente trasmette da una caverna, perché si sente un po' disturbato, perché sono si sente disturbato perché il protagonista è disturbato. Cioè, diciamo, l'attore protagonista è un disturbato, quindi si sente disturbato, giusto? Anche i suggeritori rossi che guidano questi manipoli di disperati suggeriscono loro la parola d'ordine. Ma chi? Da anni è ti sei un razzista, seminano il panico sui treni, sugli autobus, sui treni. Non pagano biglietti, si difendono e passano all'attacco rispettando gli ordini di scuderia di dell'Armata Rossa, di quattro miserabili. No, ma è peggiorato. La cosa è peggiorato, è che dice che seminano il panico su treni ed autobus. Su treni ed autobus. Scusa, caro Parezzo, anzi. E mi sembra che ci sia in collegamento il professor Rinaldi dal Parlamento Europeo, che oggi ha detto che la bandiera italiana è in pericolo, giusto? Ho fatto una foto, non so se avete Sì, abbiamo visto una foto. Lei che è parlamentare europeo. Ma hanno vietato di mettere la bandiera dell'Italia. E allora che ho fatto io tutto il giorno? Che ho fatto? Ho preso una bandiera e l'ho sventolata. Ho fatto politica. 22.000 euro al mese. Per sventolare una cazzo di bandiera. Scusi Rinaldi, ma è vero che vogliono toglierci la bandiera italiana? Hanno vietato la bandiera. Hanno detto niente bandiera durante dentro l'emiciclo. Io che ho fatto? Che ho fatto? Che hai fatto? Mi guardavano tutti come un coglione. Grazie, ma non ho capito, Parenzo, è vera questa cosa che vogliono vietare la bandiera italiana? Cioè. Una balla clamorosa. Semplicemente dentro l'aula del Parlamento non c'è la bandiera dell'Europa, ma poi ogni delegazione nelle proprie uffici ha la bandiera del proprio stato, anzi ci sono tutte le bandiere degli stati dell'Unione, ma non è che ognuno ha sul proprio perché si chiama Unione Europea, quindi lei sei un parlamentare europeo, quindi nessuno sta vietando nulla, in realtà è una clamorosa e straordinaria balla messa in circolazione dagli amici sovranisti che giustamente occupano il loro tempo. Allora, al Parlamento europeo smettono la bandiera. Oggi Salvini è stato accusato di avere preso per il culo, anzi certamente ha ridicolizzato un ragazzo che però poi si è scoperto che era dislessico sul palco delle sardine. Sì, ho visto. Ora molti dicono che è bullismo, poi naturalmente siccome uno twitta su qualsiasi cosa. Quello è un bullo, lui è un bullo. Ma sì, ho capito, però ragazzi dice che lo vogliono querelare. Adesso sentiamo questo audio, non so se si senta bene, di questo ragazzo sul palco che è dislessico e parla in un certo modo, e Salvini sui suoi social l'ha, diciamo, perculato. È il suo modo, metodo. Sì, però non modo. È che sapeva che era dislessico. Non sono l'avvocato, non faccio l'avvocato. Anche portare in tribunale Salvini perché fa un tweet su nessuno uno. Vuole portare, ma questi dicono lo querelerà. Ma che cazzo quereli? Nessuno quarelli? Vuole dai, portare su in tribunale Salvini, nessuno. Ma liberi non da un governo che ha portato la migliore sanità in Emilia Romagna, ma liberi dall'odio e dalle manifestazioni antisemite che si sentono da quel partito che qua a fianco. Poi tra l'altro, a parte qualche incertezza, non mi sembrava clamorosa la cosa. Comunque alla fine si è scoperto che è dislessico e adesso vuole querelare Salvini perché l'ha perculato sui social. L'ha preso perché Salvini prende di mira uno, anziché prendere di mira i politici, i suoi omologhi, prende di mira i quisque de populo, in questo modo, li prende, lui ha questo modo qua, si chiama bullizzare l'elettorato, bullizzare le persone comuni e usare i tuoi social come manganello. Ho capito, ma non è un politico di professione, non è un politico, è un ragazzo, un militante di base. Ma chi se ne frega, stai sul palco. Se uno dovesse andare a Pontide e prendere tutti quelli con le corna uno per uno, quello che si fa, quelli però si fanno intervistare, ad esempio quelli con le corna di pubblico, Pontida, ma si fanno intervistare. Ma cazzo vuol dire era su un prendere palco? In giro uno perché è balbuziente, è una classica tecnica un po' salviniana, ma va bene così, dai. vi piace così. Basta che non metta un'altra pizza. Crucio, 15 gennaio e con oggi sono 15 giorni che non mi lavo. Siamo al top. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. La Zanzara. Godo come un riccio, godo. Godo come un riccio. Godo. Zanzarosi. Giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Ah! Ma come si fa a vivere? Io stavo pensando proprio al lavoro politico, no? Tu passi mesi, gli anni, solo a fare tweet e comizi. Ma quando ti prenderai una giornata per approfondire qualche argomento? Non voglio dire per leggerti magari qualche libro. È il 200° anniversario dell'infinito di Leopardi. Fatti un comizio in meno e leggiti l'infinito, ma ti riconcili con la vita, con i sentimenti profondi, con le emozioni che ti può dare uno come Leopardi. È De Luca che è un gigante assoluto, sì. Che a un certo punto ha un intercalare da Rocco Siffredi, dice man, rivolgendosi a Salvini, man, prenditi qualche tempo, man, prenditi un'ora di tempo, man. Ma come si fa a governare? Beh, bravissimo, è così, è così. Anche perché quando poi andiamo nei territori, sì, i cittadini guardano i problemi concreti, no? Le questioni paraideologiche, il sovranismo, le pippe. Intanto, ragazzi, uno dei nostri freak preferiti, avete sentito ogni tanto, avete sentito ogni tanto le nostre, nelle nostre sigle, Godo come un riccio, si chiama Matti il Biondo, Matti, sì, o Mametti, non so che cazzo, è un ragazzino, è un ragazzino, ovviamente. Ovviamente inglobato nel grande circo della signora, sì, D'Urso, sì. Senti, senti, senti. Ciao Matti Biondo, guarda, sei qui, ti rendi conto? Eccomi. Oh, il sogno di una vita. Cosa hai detto? Il sogno di una vita. Quale? Questo qui di venire a pomeriggio 5. Ma niente di meno. Sì. Di una vita, quanti anni hai? 11 anni e mezzo. E da quanto lo sogni? Da quando sono iniziate le scuole medie. Dico mio, e carino. Da quale città? Carino, e carino. Da quale regione? Ma che c'entra? E da quale regione? Vabbè, che un bambino non può andare a pomeriggio 5. Figura, a me lo dici, ma però io dico anche da quale regione viene? Da ma quale città nord non viene? Vanno a pomeriggio 5. Sì, ma questo mito, dov'è questo mito? Il mio obiettivo a 11 anni, ora adesso tua figlia, adesso io non dico niente, ma se tuo figlio o tua figlia ti dicesse io voglio andare, il mio mito, adesso magari tu sarà stato istruito, è quello di andare da Barbara D'Urso, tu come risponderesti? Ti sentiresti un po' deluso direi, o no? Direi, dove miei, ho sbagliato, ragazzi. Ti chiederesti dove ho sbagliato, dimmi, direi, la ragazzi, dimmi tutta la verità. Noi Barbara D'Urso la invitiamo a cena a casa per farci raccontare la televisione, ma non andiamo in quei programmi. Noi la invitiamo a cena per giuro, fare l'esegesi dei programmi televisivi. Dopo il fatto che i tuoi figli sono diventati tifosi di calcio, voglio che ti chiedano, che è una grande la già legge del contrappasso, voglio che ti dicano, sì, papà, voglio andare ospite da Barbara D'Urso, no, a dire Godo come no, un riccio. Papà mi dice il più grande non ne parliamo, perché lei guarda, sì, ma il più, perché guarda 8:30 Lilli e quant'altro. Il più grande mi dice sono le 20, papà mettiamo Chicco, e quindi accende Mentana e guarda ma i titoli del TG, ti assicuro? No, ti assicuro, zitto, guarda zitto, i titoli zitto del TG la 7. Ma perché non lo ricoveri, scusa? Quando mia mamma ha detto vedi questo programma interessante che il pomeriggio intrattiene, ti fa un po' divertire, e da lì ho detto quello è il mio obiettivo, arrivare da Barbara D'Urso. E da quale città? Ecco l'Italia, ecco l'Italia. E da quale ecco l'Italia. Città? Ecco l'Italia. Fermi, Demone. Demone, ciao. Che è ciao. Successo, Demone? Che è successo? Allora, praticamente volevo parlare un po' del tema ambientale, nel mentre leggerò ambientale un passo del mio libro. Ambientale. No, perché su Greta Thunberg l'altra volta l'hanno criticata qualcuno, non solo l'altra volta, la criticate sempre, ma io alla sempre, fine sì, io volevo esprimere un'idea mia, no? Poi lo so che vi sto chiamando un po' troppo, ma sai che io non ho mai niente da fare la sera così a quest'ora. Beh, quindi questo è arcinoto, sì, sì, sì. Ecco, quindi praticamente, allora, cosa succede? Che il mondo no, innanzitutto, ormai è spacciato. Scusami, Demone, perché il mondo è spacciato? Adesso non ci dare questa notizia così. No, ma il mondo è spacciato, però ma ci come sono è spacciato? Tante che piccole vuol dire spacciato? Tu sei ma sì, buco nell'ozono, oceani di plastica, cambiamenti climatici, una cosa e l'altra, cioè la vita quantomeno sul mondo è spacciata. Ma no, ma che spacciata, pianeta... scusami Demone, tu con le tue conoscenze nel mondo della, dell'esoterismo e anche con i tuoi contatti, bravo, con la... Guarda, aspetta, e con i tuoi contatti con la CIA eccetera, ci stai dicendo che il mondo è spacciato? Il mondo è spacciato, adesso ho letto che c'è, ma qui un... c'è da, da toccarsi a pelle, a mano, diciamo. Ma vabbè, ma toccati finché vuoi, ma ho letto che c'è un acido, una sostanza biologica, sì, che se la metti in acqua fa raggrumare tutta la plastica, e la puoi tirare su tutta in blocco. Però da lì a levarci un continente come la Francia di plastica, come l'Europa di plastica, la vedo dura. Sì, eh? Ma io non sarei, io fossi in te, scusami, visto il tuo passato e anche forse il tuo presente, non mi preoccuperei troppo della fine del mondo, amico mio. No, io la CIA cosa dice la CIA? Questo è importante. Ma io con la CIA gli mando informazioni sui miei casi. Sui tuoi casi, sì, sì. Però non è che mi rispondono tanto facilmente, non rispondono mai. Anche dei miei amici che sono nella polizia non rispondono mai. L'unico che risponde è Cruciani, da questo punto di vista. Ma non ti rispondono neanche a te, Parenzo. La CIA fa le cose in segreto, se no non sarebbe la CIA. Capito, ma tu sei stato reclutato nel passato, però, Demone. Ma non è che sono stato reclutato, mi hanno prelevato per via della questione di Bossetti, sempre, tra l'altro. Sempre, ti hanno prelevato. Questo resta sempre un tuo convincimento. Ti hanno prelevato per cercare di risolvere il caso Bossetti. Ma hanno prelevato, tanta gente, solo che ti danno delle sostanze che non te le ricordi. Ah, non così. Ti ricordi quello che e come, succede. E come mai tu te le ricordi, scusa? È perché io, si vede che sono psiconauta e riesco a ricordare. Volevo psiconauta, aspetta. Il mio libro? Sì, no, ma te lo faccio leggere dopo. Fermo quello psiconauta. Ti definisci uno psiconauta. Fermi tutto. Una corretta nutrizione è il miglior punto di partenza. Uliveto, acqua della salute, è una fonte di calcio altamente assimilabile. Un aiuto prezioso contro l'osteoporosi per la salute delle mie ossa. Ed è priva di calorie. Bevendo Uliveto faccio un gesto che mi fa stare bene. Parola di Maria Grazia. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Imprenditore, non sprecare il 2020 aspettando la tua banca. In soli 3 giorni su credimi.com ottieni fino a 2 milioni senza vincoli e garanzie. Anno nuovo, finanza nuova. Solo su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Edizione straordinaria, il primo cane atterrato su Marte. Ma no, basta fake news. Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy e la carne è sempre il primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Un'auto elettrica! Avete appena sentito un'esclamazione di stupore di alcuni sherpa peruviani di fronte a una Smart elettrica. Psst, e basta ridere. In effetti, che ci faceva sulla cima di una montagna? La cosa più bella da fare con una Smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42 All Electric Now, 100% elettrica, 100% per la città. Guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso, con zero anticipo e wallbox. Datti una scossa su smart.com. Smart. Al mattino il latte incontra la genuina fragranza dei biscotti Duemi. E nel pomeriggio il tè reclama. Dove sono i biscotti Duemi? Dove sono? Che buoni i biscotti Duemi. Fai già accesso ai dati di Banca d'Italia. Da oggi puoi essere sempre connesso e presidiare gli affidamenti accordati dalle tue banche. MF Centrale Risk aggiorna automaticamente i dati della centrale rischi effettuando le analisi tipiche delle banche. Potrai visualizzare i grafici in CR, i fidi accordati, gli utilizzi, gli sconfini e tramite l'app riceverai le notifiche delle anomalie rilevate. Richiedi una dimostrazione su mfcentralerisk.it. mfcentralerisk.it, una garanzia Milano Finanza. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Nuova Audi Q5 TFSIe, ibrida E4, pura avanguardia, che combina il rispetto del motore elettrico a zero emissioni con la potenza del motore a benzina, fino a raggiungere 367 cavalli. E con Audi Value il valore futuro della tua Audi è già scritto. Scegli oggi Audi Q5 TFSIe. Dopo 3 anni potrai completare l'acquisto, restituirla o sostituirla con un nuovo modello, contando sulla certezza del suo valore futuro. Negli showroom Audi. Ora. La Zanzara. Io ho l'abbiato di Donald Trump. Donald Trump. Di Iran. Guarda. Donald Trump, guarda, all'abbiato, guarda di mio collo, guarda Donald Trump, mamma mia, mamma mia, Donald Trump, mamma mia, mamma mia, Donald Trump. Sempre casino, Iran, anche Donald Trump. Eccoci. Coglioncino, mai visto Salvini che prende per il culo la sardina dislessica perché si è impappinata? È come te, quando non ci arrivate insultate. Bravo, Gioè. Parenzo, e perché gli operatori al porto hanno sulla tuta bianca col cappuccio, la mascherina e i guanti? Perché gli immigrati sono radioattivi? Interviste top, avremo Giorgia Meloni e poi avremo Matteo Salvini, tutte e due in questo studio, prima e poi l'altro. Incredibile, incredibile. Sono no, pronte realtà... per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. Ci siamo dimenticati una cosa. Cosa sono pronte per essere munte? Le mammelle, che ne so, cosa? Non mi ricordo qual era questo audio preso da dove. Però ci siamo dimenticati. In realtà non è vero che Mario Giordano invita sempre Meloni e Salvini, perché lui invece una puntata dice Meloni e Salvini, nell'altra è Salvini Meloni. Però, scusa, interviste top. Ci siamo persi. Stasera Meloni Salvini. Poi puntata dopo. Interviste top. Stasera Salvini e Meloni. Ah, tu dici che gioca su questa cosa. No, però posso dirti una cosa. Allora, l'altro giorno ci siamo persi questa cosa meravigliosa. Cioè, ha dato il disco d'oro alla Meloni. Una cosa fantastica. Il disco d'oro, sentiamo, per le visualizzazioni. Senti. Ah, quindi un encomio gli ha dato. Un giornalista che dà un encomio a un politico. Giusto. Anche perché mi porti, Valeria, abbiamo pensato che lei meritava con queste visualizzazioni che ha avuto il disco Super d'oro. Ah, Super d'oro? Il disco Super d'oro! Ma questo è 8 super! 8 milioni e mezzo di visualizzazioni! Trent'anni di politica e alla fine hanno visto solo l'abbiamo adesso. Messo al fondo perché sapevo che insomma non mettere in difficoltà così risultati importanti. No, non aggredirla così. Non aggredirla così, no, ma non si può. Adesso metti l'intervista mia alla Meloni della 7, vediamo la differenza. Scopri, guarda la differenza. Vabbè, tu sei un nemico storico. Io non sono un nemico di nessuno. Sei un nemico storico. Amicus Plato sed magis. Prima di tornare dal demone scimmia che ci vuole leggere un passo di uno dei suoi prodotti, mi dicono un passo fondamentale che si chiama Il Corvo. Così mi dicono. Corvo, in anteprima, vabbè, il corvo, vabbè, in anteprima. Lo stesso Giordano, non c'è anteprima, ha convocato l'altro giorno il nostro amico Polegato. Questa è una cosa mutuata dalla Zanzara. Vabbè, Polegato, il fascista Polegato contro ovviamente un antifascista. Sì. Al coro, lì fuori dal coro. Sì, certo. Ferdinando Polegato, ti sente? Certo, direttore, speriamo mi lassi da parlare almeno qualche minuto. Mi lassi da parlare. Almeno vale la pena di parlare cosa? Di Mussolini, di Sua Eccellenza. Non lo so, quello lo lasci decidere a noi. La Sua Eccellenza. Sì, lo lasci però sommessamente decidere a noi. Di Sua Eccellenza. A te ti manda i matti, Sua Eccellenza ti manda i matti. Sua Eccellenza, sì, già lì io avrei fatto partire dallo studio un... dallo studio ma lì non mi pare. A te fa impazzire Sua Eccellenza, ma non la locuzione, scusami, ma perché la ti fa impazzire Sua Eccellenza? Sua Eccellenza Benito, ma vaffanculo. Ma perché lo odi? Detto proprio perché dal profondo, no, non lo odio, sì, dal lo profondo sopporti, sai lo come odi. Si dice dal profondo del cuore, cioè, ci sono tanti un criminale modi. Di guerra, sì, assolutamente, peggio no, di guerra, sì, peggio. Sì, cioè, un Totò Riina che è durato 20 anni. Tu stai paragonando Mussolini a Totò Riina, ancora sì, una volta. Anche po', sì. Ma perché non io dici in faccia un fascista vero? Il tuo idolo è come Totò Riina per ma me. Ma no, ma sì, ma con la differenza che uno è un criminale che ha contribuito a fare 6 milioni di morti, cioè Mussolini appunto, l'altro è un criminale. Tu dici ha ammazzato meno persone alla fine. No, in termini di persone ne ha progettato. Numero di persone, non aveva la capacità industriale di caricare la gente sui treni e spedirla al massacro. Per te dunque in termini di morti è molto peggio non Mussolini. Si fa mai il conto dei morti non si fa mai. Il quale ha preso in mano una situazione drammatica per l'Italia. Un po' legato. Ormai sì? Alla fame sì? È a un passo dalla guerra civile. Beh, insomma, sì. No, allora, no, ma scusi, ha preso, scusa, lei ha sbagliato il libro di storia, ha istruito tutto il popolo italiano. Ma chi è che sta parlando? Ma com'è che la Fusani accetta questo qui, scusa? Ma com'è che la povera Fusani, che è bravissima, accetta di confrontarsi con quel miserabile? Non è che ho dato una testata in faccia, arrivederci, grazie. Era collegato. Ah. Sta mettendo la terza elementare obbligatoria. Sì, lei ha costruito le scuole nei più alti paesi. Noi siamo qui in montagna, sì. Nei più alti paesi. Sì, in montagna, Brianza. Sì, ha fatto, ha fatto la sanità, vabbè. Ha aiutato le donne. Sì, ha fatto, faceva arrivare i treni, eccetera. Collegato, collegato, mi fermi un attimo. Signor Polegato, è vero che nel suo ristorante lei fa il dolce tiramidux? Ma questo l'ha sì, detto da però noi. Però al posto di parlare del tiramidux parliamo del dulce, voglio... di cosa ha fatto il sì, dulce. Sì, ma guardi, non è una trasmissione. Ha costruito un impero, scusi, Polegato, ha fatto delle cose fantastiche. Polegato, noi qui non stiamo facendo una trasmissione di storia. L'ha buttata in bacca, il Polegato è il numero uno. Io non voglio parlare del tiramidux, voglio parlare di Benito Mussolini. Sì, ma se uno parla di storia invita Paolo Mieli, appunto, non invita quel decorticato lì. Direttore, io sono nato fascista. Direttore. Noi fascisti nasciamo fascisti. Noi non approfittiamo di niente, noi siamo altruisti, non siamo né razzisti, niente, noi siamo persone altruiste. E sì. Io sono nato fascista ancora prima di fare il tiramidux o di fare l'amaro del duce. I fascisti si nasce. Fascisti, e io sono fascisti. Nato fascista e ce ne sono tantissimi. Perché il duce direttore, ha fatto grande l'Italia. Fermo, voglio essere fermo. Quelli che ci hanno governato dopo. Demone, sei pronto, Demone? Ecco, è la allora, cosa giusta. Allora, il demone scimmia dopo questo psicopatico. Sì, è giusto. Allora, questo è giusto. Intanto i miei libri Tempismo. Sono migliori dei tuoi. La verità lì, come si chiama lì? È vabbè, vai avanti. Dai, vai allora, avanti. Le mie pagine su questione d'occupazione. Culto. Vai col pezzo, vai al sodo, dai. Il pezzo è ambientale, per questo però volevo leggere, perché sì, senti. Un dannato corvo ci vive e basta sul mondo, non pensa né a distruggerlo né a salvarlo. Non mi resta che respirare ancora un po' di questo ossigeno che era, son convinto, magnifico, ma che ora è quel che è. Capito perché? Si collegava alla questione di Greta, è del 2012 è sto scritto. Sì. Cioè, ma non ho capito, ripetimi un po' la prima riga, scusami. Certo, già nel 2012 dicevo queste cose. Adesso cioè, lo che chiudo, dicevi? Tu. Scusa, maestro, scusa, che dicevi? Dicevo che il mondo era finito. Allora, un dannato corvo ci vive e basta sul mondo. Non pensa né a distruggerlo né a salvarlo. Non mi resta che respirare ancora un po' di questo ossigeno che era, son convinto, magnifico, ma che ora è quel che è. Ciao, Demone, ciao. Ciao, ragazzi. Roberto da Monza, vai, Roberto da Monza. Sì. Dimmi, no, buonasera. Dimmi. Buonasera, volevo dire due cose a Parenzo. La prima, in merito al fatto che ha dato del bullo a Salvini perché ha preso in giro una persona dislessica, certo. Volevo dire a Parenzo che lui è il re dei bulli radiofonici, visto tutt'altro. Che ogni volta che qualcuno telefona con un linguaggio magari non forbito, sì, però e non è una vorrei farti però è una trasmissione radiofonica, esatto. Quello è un politico, io cioè, faccio il giornalista, posso essere biasimato per il mio, sicuramente posso essere criticato, ma questa è una trasmissione radiofonica in cui si può ridere, scherzare però, e dire cose molto però, serie. Io faccio il giornalista e non governo il paese, e non l'ho fatto il ministro dell'interno, io non faccio il ministro dell'interno. Però, scusami. Allora ti dico la seconda cosa che volevo dire, che ci tenevo a dire al dottor Parento, che io le persone come lei hanno sdoganato il fascismo, perché molte persone, sentendovi dare del fascista a chi che sia, chi è chiunque, infatti, come a un certo punto si interrogano e dicono però forse non era poi così male. Non ho mai dato del fascista a Salvini perché non lo credo. Giorgio da Milano, non parlava di Salvini lui, Giorgio da Milano. Pronto, buongiorno. Dimmi Giorgio, dimmi. Cruciani, salve, buonasera. Allora, io avevo buonasera. Giusto un piccolo ancora appunto, buonasera. Volevo chiedere la dislessia per lei cos'è? Ma non lo so, è un problema, non so come definirlo, una malattia, un deficit, una meta come vuole. Cioè, perché mi chiede questa cosa? Perché è un disturbo, essendo, è un disturbo. Mi sono sentito un pochettino così questa sera sentendo lei. Perché? Che cosa ho detto? Scusi, ho attaccato i dislessici per caso? Ho detto che Salvini ha fatto bene? Non mi sembra. Beh, però mi sembrava che le sue risate portassero a quello. io non ho sorriso sul nulla, io ho detto semplicemente una cosa, che molto probabilmente Salvini, che ha un suo modo di fare comunicazione, ha preso per il culo una persona, e questo può essere criticato, non sapeva sicuramente, il modo, non sicuramente lo sapeva. Non sapeva che era dislessico, e poi ho aggiunto, sì, questo non, lo non sapeva, si può andare in tribunale, non è che adesso siccome questi signori delle sardine vogliono portare, o forse lo stesso signore che è stato attaccato, beh, quello è legittimo, Salvini, la persona attaccata da Salvini, in tribunale decida. Per fare cosa? Per ottenere cosa in tribunale? In tribunale altro, di che? Che la persona che Salvini ha portato in quel momento tribunale. Sul palco, forse più che altro in panico e non tanto stesse uscendo la sua dislessia. No, quello è dislessico, è apertamente dislessico, poi ma è stato rivelato. Assolutamente, ma per quello io a lei le ho chiesto. Ma tu sei dislessico, sei dislessico, Giorgio? Assolutamente, sono anche grafico 3D e quant'altro. Va bene, ma non mi sembra. Ma la dislessia non crea problemi in nessun un genere di tipo, se non magari nella lettura. Ho capito, ma cosa vuoi da me? Scusa, Giorgio, cosa vuoi da me? Non ho capito. Sembrava che la sua risata stesse andando a denigrare tutti i dislessici come dei ritardati, perché quella persona che era lì è stata presa nel panico, ha balbuzzato e quant'altro. Sì, certo. Ma perché era davanti a più di 2000 persone. Ma nessuno dice perché era dislessico. Ma ho capito, ma è anche io questo non lo so perché è entrato nel panico e perché ha fatto un po' di confusione con le parole e ha insomma ha fatto è balbuziente, forse la dislessia comporta anche un po' di balbuzie, io non lo so, no. Questo qua vabbè, in alcuni casi magari sì, comunque chiesto. Giorgio, il punto è un altro, non ho preso per il culo nessuno, non mi attribuisca cose allucinanti, ho detto che molto probabilmente Salvini non sapeva che quello era dislessico, punto e basta. No, fermo là. Mi dispiace. fermo là. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Allora, facciamo che io ero un architetto insieme a Sara, che è brava a disegnare. E viaggiavamo dappertutto e avevamo tante spese, le fatture da pagare, le trasferte. Ma forse questo mese possiamo posticipare i pagamenti. Così ci concentriamo sui nuovi clienti e facciamo crescere il nostro business. Fai diventare grande la tua piccola impresa. Scegli carta Oro Business American Express e scopri i vantaggi per il tuo business. Richiedila su americanexpress.it per te fino a 250 euro di sconto sulle spese aziendali. Messaggio promozionale info su americanexpress.it/business. Tuta? C'è. Guanti? Anche. Paraorecchie? Due paia. Ok, andiamo pure al lavoro. Un vero professionista non smette mai di esserlo, nemmeno quando la temperatura scende a zero. Se scegli un veicolo Fiat Professional a gennaio, anche l'anticipo va a zero. Acquistalo ora e inizia a pagarlo ad aprile. Canone da 139 euro al mese, TAN 3,80, tasso leasing 3,88. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiatprofessional.it. Dario Romano Estensibile.it. Dal 1981 nel settore dell'imballaggio. Bobine di film estensibile di qualsiasi peso, spessore e colore. Qualità, servizio, prezzo. Dario Romano Estensibile.it. Dal 17 al 22 gennaio, appuntamento con Vicenza Oro, vetrina delle eccellenze italiane e internazionali del comparto orafo e gioielliero, organizzata da Italian Exhibition Group, e con VO Vintage, in mostra per la prima volta il vintage di altissima gamma di orologi e gioielli, con la possibilità per collezionisti e appassionati di vendere o acquistare pezzi unici e rari. Radio 24 sarà presente a Vicenza Oro con dirette e appuntamenti speciali. Tutte le info su radio24.it. La Zanzara. Ascolta Cruciani, sono un po' indietro con i podcast perché sono stato molto impegnato, ma ascoltavo adesso di quella che vuole passare da 130 kg a 120 kg. C'è un solo metodo, dille che deve contattare il dottor Lemme. Un secondo, quella diventa obesa. Ma tutti quelli che dicono che la ragazza che vuole ingrassare fino a 120 kg deve farsi un'assicurazione sanitaria privata, ma ce la fanno? Cioè, allora tutti quelli che fumano due pacchetti di sigarette al giorno devono farsi un'assicurazione sanitaria privata? Mandate a fanculo. Comunque mi stanno divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. arrivano notizie dal nostro amico Gianfranco Librandi del Partito Democratico, ragazzi miei. Allora, cosa è successo? Sapete che tra l'altro Gianfranco Librandi è uno di quelli che dice: quando ti rapinano in casa o quando ti rapinano in un negozio, beh, amico mio, faresti meglio invece di sparare a chiamare i carabinieri, a chiamare la polizia, a chiamare le forze dell'ordine. Dunque uno che apparentemente sembra molto legato, comunque sembra una persona che tiene molto alle forze dell'ordine, alla legge, eccetera eccetera. Secondo notizie che arrivano oggi, sarebbero andati a luglio scorso dei finanzieri nella sua azienda, che fattura 200 milioni di euro, la sua azienda. Quanto? Di 200 milioni di fatturato. Bravo. Assolutamente. Allora, cosa avrebbe risposto a questi finanzieri? Ti giuro, io sono io e voi non siete un cazzo. Lo stile è quello, lo stile è quello. Allora, come ha risposto di fronte alla, diciamo, all'intrusione, all'arrivo di questi finanzieri? Innanzitutto ha insultato uno dei capi là, dicendo che io lavoro non come voi che non fate un cazzo dalla mattina alla sera, pago le tasse e quindi anche il vostro stipendio. E ha insultato ancora chi comandava l'operazione, dandogli delle ghiste di merda. Si è definito un intoccabile, eccetera eccetera. Io un intoccabile, voi siete morti, leghisti di merda. Così il signor Librandi, che ovviamente smentisce. Capito? Capito? Capito? Sì. Capito? E che devo fare io? No, io dico, capito quello che sarebbe accaduto, hai capito o no? Dai. Ho capito perfettamente, dopodiché va tutto verificato. Se si è comportato così nei confronti della Guardia di Finanza, oltre a essere un grande maleducato. A proposito di Mussolini, l'altro giorno è apparso Mussolini. Un video sull'internet, Mussolini. Sul web, con la nonna di Fedez. C'era una specie di tavola, una specie di programma di questi podcast, eccetera, dove c'era Fedez, un conduttore, e la nonna. Senti che dice sul signor Mussolini, la nonna del signor Fedez. Magari era tutto costruito, comunque. Mussolini, pro o contro? Ho paura. Io pro. Ecco. No. Cosa? Pro. No. Ci vuole qua oggi. Oddio. Ma quale dei due? C'è la... Quello che era prima, non quello che è stato dopo. La nonna del signor Fedez. Vabbè, del signor Fedez. Si deve chiamare Fez anziché Fedez. Sì, quello è vero. Fez. Signora Fez. Sì. Signora Fez. Allora io l'ho conosciuto. Okay. Ma in che senso, nonna? Quando l'hai conosciuto? Quando mi ha dato. Io ho preso un premio da Mussolini. Ma come? Ma non è per questo, è perché io avevo 6 anni. Ho capito, nonna, ma non è che puoi valutare. Ma che premio era? E com'era? Allora, no, voi che credete nel Mussolini che c'è stato dopo, Okay. Ma all'inizio lui ha fatto la marcia su Roma e adesso ci vorrebbe la marcia su nonna. Questo è sfruttamento di anziani, dici tu, no? Sfruttamento di anziani. Sì, io soprattutto prima di fare questo tipo di video verificherei le posizioni politiche della dorata nonnina, di cui nutro grande rispetto, per carità, per l'amico. Però mi sembrava anche Fedez un po' imbarazzato dalla nonnina fascia. Ecco. Guarda che io l'ho conosciuto davvero, tu mi prendi. No, lo so, dopo divento serio, ascoltiamo Mussolini. Ma solo una parte, a me piace. Italiani! Che la vecchia mente catta. Beh, adesso questo magari non è riferito direttamente alla signora Gennaro da Caserta. Ah, nonnina, adorabile nonnina. Buonasera Giuseppe. Giuseppe, ti devo raccontare un aneddoto. A parte che comunque in questo paese ormai siamo diventati tutti, pure se per scherzo si fa un saluto fascista e apologia. Ma quello sono convinto non anch'io. Sì, però Gennaro, amico mio, non è che uno per scherzo fa un saluto fascista. Fascista, cioè, ormai non lo fai per scherzo, lo fai. Giocano con sto fatto, no, perché il fascismo vero non esiste più, è inutile che ci, anche se io non essendo fascista, però secondo me oggi per alcune categorie un po' di fascismo andrebbe bene. In che senso, scusa Gennaro, spiega di meglio. E mo ti spiego pure perché. Che vuol dire per alcune categorie il fascismo può servire? Spiegami in che senso. Facendo di un piccolo aneddoto, io quando ero ragazzino, oggi ho quasi 50 anni, no? C'era un signore anziano già dall'epoca dove abito io al paese, mi raccontava sempre che lui faceva il piazzista, stava lì, faceva il mediatore, no? Chi vendeva e comprava, lui traslava le operazioni. Sì, ma che c'entra questo? Vai veloce, Gennaro. Faccio capire che cosa c'entra. Cioè, passarono i fascisti, dici, ma che stai a fare sempre qua in mezzo? Dice no, io faccio, che sto lavorando, e che lavoro fai? Dice no, uno vende, uno compra, io sto in mezzo. Domani vai a lavorare, perché sennò ti tagliamo la testa. Allora, per certe persone, con tutte queste situazioni di mediazione che vogliono vivere a spese di chi lavora seriamente, ci vorrebbe un po' di fascismo, farebbe bene. Ecco, capite? Ma ecco chi? Ma ecco, ecco, ci vorrebbe, farebbe bene cosa? Ma farebbe bene cosa, cretino? Farebbe bene, sai cosa? Per esempio, proprio Gennaro, il suo fascista. Ma sei un imbecille. Cosa farebbero? Verrebbero in radio, ti prenderebbero il suo microfono, quello può essere, forma fallica, ti metterebbero un preservativo a base di carta vetrata e te lo ficcherebbero là, capito? Ma Gennaro, ma questo sicuramente, appunto, gente come te, coglioni come te, no, imbecilli come te. Perché tu ti senti padrone in radio. Ma sei una testa di cazzo, questo è chiaro. Tu sei un imbecille, sei un prepotente, solo radiofonicamente, perché se staremmo sei un prepotente, ma disse sei una il fascista. Testa di cazzo. Il fascista dice sei un semplicemente una testa di cazzo, Gennaro, semplicemente una testa di cazzo. Ma lo conosci il sarto di Parenzo? Come si chiama il tuo sarto, Davide? No, non posso dirlo. Un sarto, è la grande puttana di mamma. Ma che modo di parlare è questo? La mamma, ma mamma di Parenzo è una persona rispettabilissima. Ricordatemi, richiamatemi sto cretino. Era cioè, sempre questo qua, era quello che insultava essere, il mio santo. Può essere, Antonio da Milano, Antonio, può essere, maybe. Dimmi, Antonio. Sì, salve, salve, sera. Dimmi. Senta, io vorrei parlare di tutte queste cose sul fascismo, il comunismo. Ah, giustamente il ci dicono, aspetta un attimo, aspetta, mi dicono giustamente che Librandi è di Italia Viva e non del PD. Sì, forse ho detto del PD. Italia Viva. Cioè, renziano, certo. Infatti ha fatto la donazione Renziano, alla Fondazione di Renzi, certo. Dimmi, dimmi. Fratelli d'Italia. Allora, che vuoi, Antò? Che vuoi? Ma in Italia, ma parliamo troppo di fascismo, non c'è ma chi se ne frega, noi non ne parliamo da settimane, Antonio, cosa vuoi? Ormai mediocri, perché non studiamo più. Chi parla di fascismo e si riempie la bocca parlando di fascismo non capisce nulla del fascismo, ma basta ascoltarli, almeno leggere qualche libro sul fascismo. Vabbè, cosa vuoi dire, Antonio, cosa vuoi dire? Non ho capito. C'è più che altro il mito. Gennaro, sì, cosa sì, vuoi? Sì. Cosa vuoi? Tu mi hai attaccato. No, io non ho attaccato, sei tu che hai attaccato. No, allora questo ti stavo dicendo. Ma tu sei un coglione, questo è il punto. Tu ma sei il coglione sei tu, ma tu ti senti padrone in radio di poter dire tutto quello che vuoi. Ma perché a te, per esempio, a te ti danno uno stipendio di 15.000 euro al mese. No, veramente ti sbaglio. Di più. Quello non si sveglia la mattina per 15.000 euro. Fascista. Secondo me equilibrerebbe un po' la cosa. E poi magari chi veramente si fa il culo e studia 20 anni, magari si deve accontentare. Ma ti rendi conto che questo paese, no? Cioè, prendi un idraulico che magari ha una licenza media e guadagna un sacco di soldi perché fa come cazzo gli pare, non fa le fatture, evade tutto. Ma quanto, cosa c'entra? Ma stai sbarellando? Ma di cosa stai parlando? Stai andando da un discorso all'altro? Ma che ti sei bevuto? Ma ti sei bevuto il cervello? Ti sei bevuto? Non ho bevuto niente perché ci sono troppe mediazioni in questo paese. No, ma ci sono mediazioni nel tuo cervello, questo è il punto. Il tuo cervello è bacato. Il tuo cervello è bacato e malato. Questo è abbastanza confermato. Ma tu ti rendi conto che se ci fosse un regime fascista, no? A te ti lascerebbero fare quello che vuoi. Ma meno male, infatti non c'è in radio. Infatti non c'è, cretino, imbecille, coglione. Secondo me è giusto quello che fai tu, né cretino che non sei altro, né... Sei solo un animale da sesso, tu che fai? Non fai altro che parlare di sesso, di erotismo e di cretinata. Solo questo sai fare tu. Su questo l'idiota ha ragione. Se mi posso credere, l'idiota su questo ha ragione. L'idiota ha ragione. Dai ragione a Gennaro. Trombettella di merda, trombetta, tu sei sul naso. Voi se stareste faccia a faccia a me, queste cose non me le darete, non me le direste, ve lo giuro. Ma di che stai parlando? No, io ho detto che l'idiota ha ragione, quindi dalle ragioni che devo fare. Ho detto l'idiota ha ragione, le sto dando ragione. Sei tu un cretino idiota. Ma scusi, non ho capito perché si arrabbia, si offende. Ho detto l'idiota ha ragione, ma non capisco perché si arrabbia. Ti ricordi quando l'ho chiamato e ti dissi io vengo a Milano e ti vuoi ti vuoi guardare in faccia a faccia con me? Vuoi avere un... Ma io non ci penso nemmeno lontanamente, ma stai a Caserta e non rompere i coglioni. Resta a Caserta e non rompere il cazzo. Sei solo buono a criticare in radio. Questo se... Ma io quello faccio di mestiere, cretino, imbecille. Quello faccio di mestiere. Testa di cazzo, questo faccio. Sei senza ossa, tu non hai le ossa. Come essere umano non hai le ossa. Ma le ossa che vuol dire? Non hai le palle al limite. Convindustria, sta ben sicuro che non ti potrò mai sostituire a te, perché una persona più cinica e falsa e ipocrita di te non la troverà mai per poterti sostituire. Gennaro, dimmi che c'è. Ma vai, a me mi farebbe tanto, guarda, fare un confronto. Ma confronto su cosa? Ma su cosa il confronto? Cretino, imbecille, cretino. Ma confronto su cosa? Che sei il nulla? Sei il nulla. Ma chi dai che sono nulla? Vuoi fare il confronto? Vengo io a Milano. Sei il nulla, sei il niente, tu zero. Sono qua da qua. Quando vengono le persone faccia a faccia, ti cachi sotto. Ma perché faccia? Ma che bisogno ho di fare faccia a faccia con te? In radio ti metti a offendere perché ma io ti offendo perché tu ti dovresti vergognare. Ma di che cosa? Di fare una trasmissione come la fai? Non hai una direttiva sull'informazione, fai quel che cazzo ti pare. Su questo l'idiota ha ragione. Che comandi tu, no? Parli di sesto, l'idiota ha ragione. Ma perché, scusa, tu non trombi, Gennaro? Ma che c'entra? Che sono fatti miei, ma non è che ti devo dire. Tu il problema è che secondo me il problema tu, è quello. Il problema tu è quello. Hai un grande secondo problema me il problema è quello, Gennaro. Lo esponi sotto secondo forma me il di problema nei confronti delle persone per capire se il problema è solo tuo. Secondo me il problema è tuo, il problema. Secondo me il problema è che è quello che mi sa che tu niente. Tu niente, sai perché domandi a volte parli sempre dell'omosessualità, della transessualità, perché secondo me ha un serio problema. Tu e vuoi capire se gli altri. Cioè, tu dici che mi piace l'uccello. Tu secondo me o sei bisessuale, tu secondo me ti farei anche sodomizzare. Secondo te, ovviamente, questa cosa qui è una cosa negativa. Non è negativo, ma perché la esponi in radio? Secondo me perché tu pensi che gli altri devono Gennaro, far apparire come normalità. Gennaro, capito? La conclusione è solo una. Come non è normale? Lo vuoi confronto? Vengo faccia e faccia. Ma come non è normale? Cosa non è normale? No, non sei normale tu. Ciao Gennaro, vai a fare in culo, vai a fare in culo. Ma quale confronto? Vai a fare in culo. Vai a fare in culo. Vai a fare in culo. Chi è questo? Ma vaffanculo tu. Allora ragazzi, nei giorni scorsi abbiamo parlato del caso di una ragazza, credo di una trentina di anni, che pesa 120 kg e vorrebbe pesare di più. Ci sono arrivati un sacco di messaggi, una vergogna, pesa sul Servizio Sanitario Nazionale, ma come si fa? Com'è possibile? È malata? È disturbata? Non solo, ha detto anche che insomma, non gliene frega nemmeno niente del sesso, anzi vorrebbe trovare ovviamente qualcuno che apprezzi questo suo modo di essere, il fatto di voler crescere di peso sempre di più. Ora, noi abbiamo una persona che sulle diete è un principe, un maestro, si sente addirittura Dio, si sente una specie di mostro nel far dimagrire le persone. Quel personaggio incredibile. Alberico! Ci sono! Come sono andiamo? Il socio di Dio, meglio. Sempre meglio. Allora, una persona, Alberico Lemme, che vuole aumentare di peso, come la definisci tu? Dimmi. Non è normale, secondo me. Non è normale. Perché lei non si vuole bene, non si ama e si rovina solo la salute. Ed è una testa di donna, come sempre. Sì, d'accordo. Cioè, tu dici che è una cosa che non c'è un uomo che vuole aumentare di peso. Al limite solo la donna. Sì, solo la donna può aumentare di peso. Il maschio purtroppo aumenta di peso a sua insaputa. No? Tu dici una che deliberatamente, questa ragazza qua si chiama Simona, pesa 120 kg, ed è esattamente sua. Il tuo nemico. Cioè, una, se tutte le donne fossero così, se tutte volessero fare così, per te sarebbe la fine. Cioè, invece di voler dimagrire, questa qua vuole ingrassare. Ma è vera la storia, non è inventata. C'è una ragazza che dice: io voglio mangiare perché mi sento bene così, mi vedo bene così, mi vedo bene cicciona, sempre di più, 120, 130, 140 eccetera. Ora voglio dire, Alberico, che male c'è? Ecco, sono al telefono. No, se uno si vuole ammazzare va benissimo, per carità, se vuol vivere male va molto bene. Ma chi è che ti sta chiamando? Chi è che ti sta chiamando? Nessuno, si autochiama lui. Chi è che ti sta chiamando? No, mi chiama. Ma faccio rispondere, no. Vai, rispondi. Enrica, dimmi. Dimmi, vai. Allora, ma se Camberoni stasera, come già scoperto, siamo qua tra amici, hanno portato Chi paga la cena? Dimmi. Chi è frega? Noi. Allora, il gamberone va andò bene, è gelato alla, stracciatella con caffè amaro, mi raccomando, domani mattina hai mezzo chilo in meno. Mezzo chilo in meno. Ok, grazie, va bene, grazie. Con gelato alla stracciatella. Cioè, mezzo ciao. Chilo. Ciao. Cioè, gelato alla stracciatella mezzo chilo in meno, non ho capito, ma sei impazzito. Esatto. Hai sentito la telefonata? Sì, ma non ho capito, gelato alla stracciatella mezzo chilo in meno. Non servisce, faccio il viaggio culinario, la persona mi chiama dal ristorante, mi dice cosa c'è su quel tavolo, mi ha detto ci sono gamberoni, gelato, eccetera, io faccio mangiare i gamberoni, gelato alla stracciatella, domani mattina questa ragazza avrà mezzo chilo in meno. Allora, quelli là che dicono Fiorello ha appena detto oggi che è dimagrito, non so, grazie non, a una dieta salutare in cui praticamente c'è non mangia digiuno, dalle 5. No, dalle 5 e mezza del pomeriggio fino alla mattina. Una dopo, fandonia, che... non ho capito. È una sciocchezza, è una grande stronzata, secondo me. Poi non è che ci vuole qualche scienziato che dice non mangio, salto due pasti e dimagrisco. E ci vuole Fiorello, qualche scienziato di una cosa del genere. No, lo sanno tutti che se uno non mangia dimagrisce. La mia specialità è che faccio mangiare e si dimagrisce. Questa sì, è la differenza. Ho capito, però amico mio, cioè dunque peraltro è piuttosto ciccione anche questa, l'LM questa io l'ho visto di persone è bello corpulento, cioè queste cose qui le applica a tutti gli altri, lui è però cioè, scusami tu, amico, non è esattamente sono un vero ma quale italiano, fisico ma sei tutto flaccido sei uno schifoso tutto ma flaccido mollo ma c'è una panza con baule sì, ma quale panza chi da cruciale sono andato dalla mia ottima dietologa sono andato in palestra due volte a settimana. La mia dietologa mi ha fatto bere 3,5 kg. Casa tua. Mai. Io voglio dire una cosa: è un vero maschio, è un vero maschio italiano. In che pagliaccio. Senso maschio italiano? Scusa, ma chi è un maschio italiano? In tutti i sensi, ma scherzi, ce ne sono pochi di maschi in giro adesso, sì. Non si corteggia più. Perché sono tutti flaccido, flaccido. Nessuno soddisfa le donne. Nessuno è flaccido. Nessuno le soddisfa, dici? No, non sanno più come corteggiare, come far godere le donne. Questi maschi ci sono in giro. No, ma non ci sono più i maschi praticamente. No, i maschi ci sono e sono meno male, sarebbe grave no, per non me, ci non sono, ce la faccio più. No, non ci sono maschi, nel senso, i veri maschi. È sposato pure lei, dai, ma che dice? Ce la faccio vabbè, più. Che io sono felicemente separato dal 2000. Occhio. Se n'è andata pure quella, t'ha mollato pure la moglie. Vedo, allora, è però, tornando a Simona, secondo te questa qua è disturbata? Secondo te questa Simona è disturbata? No, secondo me non ci sta col cervello questa qui. Simona? Non si ama. Eccola qua. Ciao, ecco, Giuseppe, ecco ciao, Simona. Ecco, buonasera a tutti. Buonasera signora, scusi allora, per sto coglione. Allora, dice Simona, che se... ti posso fare una domanda? Sì. Perché vuoi ingrassare? Perché vuoi farti del male? Perché mi piace esteticamente, non c'è nessun altro perché, dottore, perché mi piace esteticamente. Ma lo sai che ti stai rovinando la salute così facendo? Ma io sto bene di salute però, perché comunque sono sempre in movimento, faccio la cicletta, mi sposto molto piedi, quindi comunque... Attendo al diabete, infarto, ictus... No, perché mangio tanta frutta secca è utile contro il diabete. La frutta secca, se pesi 120 kg, sei grasso come no, un vitello. No, non sono 120, 113, esattamente. Devo arrivare a 120. Sei magra. Ma che c'è? Allora, voglio dire una cosa. Per i miei standard sicuramente. Scusami una cosa, dunque i pericoli quali sono al pericolo? Non ho capito. L'ictus, l'infarto, il diabete, l'ipertensione. Ipertensione. Quali sono quelli che dicono tutti? Beh, ok, dicono tutti, però... guardate che c'hai 30 anni, ma se ci arriva a 40 no, 30 anni, no, 49, scusa, 50 ottobre. Comunque. E qui sei veramente a rischio. Ma vuole ingrassare sempre di più. Allora questo è da bene, voglio dire, cioè non è che se mi dovevo ammalare mi ero già ammalato. C'è gente che a 30 anni veramente ha già subito interventi chirurgici e tutto. Io ho mai fatto un intervento in vita mia, grazie a Dio. Ho ancora tutti i denti sani, tutti i miei, quindi cioè voglio dire. Ma quanto vuoi arrivare? L'unica cosa che non funziona è il cervello, capito? No, il cervello funziona benissimo. A quanto vuoi arrivare, Simona? Meglio di quello di molta altra gente. Torna ad amarti, per favore, fallo per me. Beh, mi sono sempre amata, proprio per quello. Comunque, Alberico, se... mi voglio nutrire bene, mi concedo tutti i lussi, tutti gli stizzi, tutto quello che voglio, purtroppo perché ho capito, ma questa bene. Qua vuole ingrassare, che devi fare, Alberico? Vuole ingrassare. Come i dietologi non hanno fortuna, assolutamente. Capito, questo è il punto fondamentale. Però io voglio chiedere una cosa, ma a quanto vuoi arrivare? Non ho capito, Simona. Ma io non ho limiti, non mi metto limiti, anche perché purtroppo per me stasera cosa mangia, signora, ad esempio? Ogni chilo che metto per me è una vittoria. Insomma. Cara Simona, stasera ci dica il menù di stasera, sono le 19.57, ci faccia 19.57, capire... 19.57 allora, innanzitutto ha già mangiato? Perché orari molto sballati, no, non ho ancora mangiato. A che ora mangia? Probabilmente mi sarà più tardi, verso le 9 magari, cosa mi farò? Giusto, mangiare e andare poi subito a letto, è giusto, andare a letto subito. una matriciana, poi magari un paio di salsicce alla griglia, sì, no? Con patate, sì, e anche un po' di verdura cruda, perché comunque non è che disegno, no, tutta per cruda, carità, salsiccia alla griglia con patate e verdura cruda, matriciana, salsiccia alla griglia con patate, verdura mista, insalata, così. E frutta anche, perché come ho detto, io mangio di tutto, frutta, non è che mangio, sì, solo cose dolce, caloriche, sì. Dolce? Dolce, sì, sì, sì, probabilmente un gelatino, gelato al biscotto che mi piace molto, oppure... Lemme, che dici? Ecco, un'altra telefonata a Lemme. Lemme? No, è lui che esplode. Lemme? Sì. Alberi, chi è? Sì. Chi è che sta chiamando? Chi è? Dario, chi cazzo? Guarda che sei sulla zanzara, eh? Chi cazzo è questo qua? Chi è? Certo, cosa devi mangiare domani? Domani io avrei dovuto comunque. Ma chi è? Una banda di spostati, esatto, che chiama. È un cadetto. È un cadetto. È un attimo, perché non me lo ricordo molto. Non ti ricordo. Sei una testa di donna, caro Dario. Allora, domani mattina fai un bel piatto di spaghetti, olio e peperoncino. Sì, ma come? Non sei un cazzo, scusa. Cosce di pollo a pranzo. Sì, poi? Sì. E zucchine grigliate a cena. Mamma mia. Perfetto, ciao. Ah, solo zucchine grigliate, 240 euro così via al volo. Ah, va bene, ma solo zucchine, ma è un bandito vero, solo le zucchine a cena però. Ma hai visto, io lavoro H24, hai detto. Ma quale H24? Sei un fermi tutti, un bandito. La zanzara. La casa Savoia, macchiata da un'onta di sangue, si sveglia il popolo che langue, si sveglia il popolo che langue, o ladri del nostro sudore, nel mondo siamo tutti fratelli, noi siamo le schiere ribelli, sorgiamo che è giunta la fin. A morte il re, il principin, a morte il re, il principin. Direttore, lo faccia tacere! Allora, prima di tornare da Lemme, dalla nostra amica Simona, la cicciona che non vuole ingrassare e che non si vergogna di essere chiamata cicciona, mentre Lemme, se la ricevesse, ma non ha, credo, non potrà avere questo piacere, non ha modo. Se la ricevesse, la insulterebbe, no? Cosa le diresti? Cosa le diresti, Lemme, se venisse da te? Cioè... A questo simpatico, sei una vera diversamente magra. Cioè, ma troppo poco, gli diresti cicciona. Simpatica. Mi dispiace per lei, perché è veramente una cicciona. Questo il cervello non gli assiste proprio, sta ragazza. Cioè, tu dici, non c'ha il cervello, bene. Non c'ha il cervello, no, proprio. Non gli assiste, non ce l'ha. Allora, non prima c'è. Di tornare a Lemme e a Simona, c'è un'assurda polemica incredibile che riguarda Sanremo. Guarda, ragazzi, è veramente una roba da matti. Cioè, Amadeus, io ti ripeto, lo conosco anche poco, l'ho incontrato qualche settimana fa alla stazione di Milano, abbiamo fatto due chiacchiere, ma qualche settimana fa, proprio mentre, cioè, nei primi giorni in cui era stato nominato direttore artistico del Festival di Sanremo. Ieri ha fatto una conferenza stampa. A me di Sanremo non me ne frega un cazzo, proprio nulla di nulla, ma è tipica questa reazione che c'è stata alle parole di Amadeus, tipica del fatto che non si può dire un cazzo e ormai viene bollato come maschilismo, sessismo, no, disprezzo nei confronti delle donne. Ora Amadeus ha avuto il torto di dire le cose come stanno. Noi invitiamo delle fighe, questa è la mia traduzione, ma la realtà è questa. Cioè, abbiamo invitato come vallette, come sue ancelle. No, che vallette? Vabbè, ma quello che è tra Vallette e altri personaggi, abbiamo invitato delle persone che sono delle fighe, perché questo deve essere chiaro. Chi cazzo inviti a Sanremo, diciamo, come partner del conduttore, o comunque quando c'è un conduttore maschio, inviti delle donne, la maggior parte delle volte sono donne più o meno piacenti, poi c'è qualche eccezione, eccetera eccetera, però lui ha avuto il torto di dire abbiamo invitato delle donne belle. Non solo, ha detto, rispetto ad alcune donne che sono nel cast di Sanremo, ha detto anche che sono le compagne di persone famose. Non sarà stato particolarmente elegante, ma chi se ne frega? L'hanno chiamate perché sono fighe queste qua, perché sono delle fighe influencer, gente che sta su internet. Io non so se sia giusto o sbagliato, ma perché uno deve essere tacciato di sessismo? Leggo da qualche parte, ti giuro, leggo da qualche parte Sanremo e le donne di Amadeus, ecco perché nel 2020 non è accettabile un servizio pubblico del genere. Pagare le tasse per avere un servizio pubblico che promuove il modello femminile della ragazza bella e zitta, che come obiettivo nella vita ha quello di farsi scegliere da un uomo famoso e importante per un ruolo di secondo piano, fidanzata, ombra o co-conduttrice che sia, non era accettabile prima, figuriamoci nel 2020. Ma quale modello di cosa? È uno show, non è il modello di un cazzo. Non è che su Sanremo c'è il modello di donna, è uno show in cui invitano anche delle belle fighe. Non c'è da dare, beh, c'è a dire delle cose perché sì, rappresentano qualcosa. In alcuni casi, sì, in alcuni la giornalista però, della Rai, sì, però, ma scusami, non è vero, ma no, non è così. Ma, ci sono state scelte allora, sulla base. Senti di... la frase di Amadeus. Senti le frasi di Amadeus. E poi ho piacere di avere donne meravigliose questo festival e quindi volevo ringraziare da destra a sinistra Francesca Sofia Novello. Grazie Francesca, è una ragazza, ovviamente sono tutte molto belle, una modella, ragazza bellissima, sono contento. Ecco, Francesca per esempio è una come dire, una sorta di scommessa personale, perché a volte non per forza devi conoscere, ero curioso, questa ragazza molto bella, sappiamo ovviamente essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo che intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Si è dovuto scusare, purtroppo si è dovuto scusare perché funziona così, no? Si è dovuto scusare per la capacità di fare, di stare un passo indietro. Ma che roba è? Ma che roba siete matti? Ma cosa voleva dire? Stare un passo indietro adesso che fa la moglie, la mogliettina non del... Non me ne frega un cazzo, non è che il modello di donna che propone Amadeus al festival è la donna che deve stare un passo indietro. Ma dai, è un festival morto, dai, di che parliamo? Su! Ma su, non è meglio l'Emme a Sanremo, non è meglio l'Emme. Avevo proposto un altro gente in mondo, ma che dobbiamo invitare le cose, gli scoffer, ma è tutto brutto la gente che mangi, tutti grassi, ma come grassi, ti permetti tu, ma poi ha parlato, sì, pirla per qua la bellezza, per la io sono un fautore della bellezza, io trasformo la ciccione, ma sei un cesso. No, ma ha ragione lui. Che dobbiamo invitare sul palco di Sanremo? Le bruttone? No, ma chi no. Non è che se uno è bello in televisione sulle brutto dai, non va. No, ma ha ragione, dai, ha ragione. Alla fine ha ragione lui. Cioè, alla fine. Non è belli o brutti, uno che ha delle cose da dire o non ha delle cose da dire. Lemme, ad esempio, è... non hanno cose da dire le brutte, no? Ma chi te la deve? Ma che scemenza è? Ma che scemenza è? Che scemenza è? È un programma politico, mica un programma culturale Sanremo. Ha ragione Lemme, dai, ha ragione Lemme. Scusami, Alberico, tu Lemme inviteresti, che ne so, facciamo un esempio, una persona che lavora alla Rai, chi può essere, che ne so, la Murgia, la inviteresti? Bravissima, al festival di San scrittrice, che c'è? Ci dobbiamo fare con la Murgia? Ma non sai neanche chi è, perché non hai manco letto un suo libro, perché sei un somaro, flaccido somaro, un somaro sei, che ti telefona uno e tu gli dici, allora mangi 50 kg di paste e poi fare la cosa col burro. Così sei ridicolo. Pronta? Sì, sta? Allora mangia la bistecca con la bistecca col sangue con tante patate e domani ti magrisci un chilo. Quella panza te la faccio sparire una settimana. Ma non ho nessuna panza più io. Scusami, la realtà, la ricetta Lemme sarebbe bandire le brutte da Sanremo, insomma, no? Ma minimo, ma non solo da Sanremo, anche dall'Italia. Intanto l'unico che è stato bandito è stato lui dalla moglie. Intanto l'unico bandito è stato lui dalla moglie. Simona, adesso Lemme ti dice che cosa accade a una cicciona col sesso. Ma cosa mangia? Sì, non ho capito. Aspetta, poi. Lemme, che cosa succede a una persona di 113 kg che punta a aumentare più col sesso? Cosa succede? Col sesso? Non tromba più. È vero, Simona? Si abbassa la libido, si abbassa la non libido. Non sono interessata all'argomento, perché sono quasi in età già di menopausa zero, ormai. Già come sei entrata zero in menopausa? A 49 anni sei entrata in menopausa? No, non sono in menopausa, però. Però non te ne frega un cazzo. Statisticamente parlando non dovrebbe essere lontana. Però non te ne frega un cazzo, proprio niente. Cioè a te ti interessa solo ingrassare, non ti interessa un uomo che ti scopi. Adesso diciamo la verità, Simona, andiamo al sodo. Non ti interessa uno che trombi con te? Non è essenziale, non è essenziale. Non è essenziale. Come rispondi, Lemme, a questa cosa? Zero. Eh? già ci siamo. Libido zero, già non ha più voglia di fare l'amore, vedi? Ma secondo te, Simone, è una donna ma o no? Ma io ero così anche da più giovane, comunque. È una donna o no? Non è stata molto succosa. Lemme, è una donna o no, Simona? Purtroppo sì, mi dispiace per lei. Come purtroppo, cosa dice? Ciao. Come purtroppo sì. Ciao Lemme, ciao Simona, ciao. Ciao. Ciao. Alex da Torino, vai Alex. Mi sentite? Ti sentiamo, dimmi. Ho ascoltato, io siccome devo ringraziarti perché rappresenti il mio alter ego come personalità, cioè, pensate, avessi un po' più di coraggio, giuro che sarei esattamente per filo e per segno uguale a te, solo che certe volte nei contesti preferisco stare zitto sul farlo la mia. No, non ho capito, scusami, non ho capito. Volevo ringraziarti perché per me parlare con te è come parlare col mio alter ego. Vabbè, perché adesso E allora? E poi, avendo ascoltato tutto il podcast, volevo commentare un paio di cose. Ad esempio, Siamo in diretta. Hai fumato o no? Siamo in diretta, fratello caro. Quale podcast? No, ha ascoltato. Ho ascoltato. Sì, però Alex, non ho capito, ma hai chiamato, sei un po' vuoi dire, alterato da qualche cosa o no? Sinceramente dal fatto di Greta della persona che parlava di Greta Thunberg, ma chi? Come se fosse uno dei primi che ha ascoltato, come ma quello fosse... è il demone scimmia, che ha la tua stessa lucidità però. Pardonne-moi. Ma che cos'hai stasera? Nulla. Sono perfettamente. Ma no, ti sentiamo intanto un po' lento. Cioè, mi sembri un po' abbattuto. Confuso anche, sì, confuso e lento. No, confuso no, semplicemente volevo dire. Che cosa? La mia, cioè, non approvo le persone che valorizzano così tanto Greta Thunberg. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ci sta. Vito da Trapani, dai, Vito da Trapani. Ci sta. Ciao, buonasera. Sì, dimmi. Volevo dire due parole riguardo al dietologo, al pericolo, come pare si chiama. Riguardo al fatto che diceva che le donne, cioè soltanto quel caso di Simona, con pochi casi, tendono a ingrassare. Io ho no, delle esperienze. Ma non è che dice che tendono, che volontariamente. Volontariamente. Ma anche dice, gli uomini no, anche gli uomini. No, beh, perché non è che esistono, non lo so, adesso magari esistono dei gruppi di uomini persone che volontariamente decidono di diventare più grassi perché si sentono meglio più grassi. Secondo me non esistono. All'università, le ragazze si dicono. Schifosamente magri, cioè nel senso vedo le oste, allora palestra, aumento di alimentazione, proteine, ma che c'entra? Ma quella è un'altra cosa però, il culturismo quello. No, cioè un uomo che si sente troppo magro cerca di... Sì, ma è diverso, c'è gente qui, il caso è una persona che pesa quasi 120 kg che vorrebbe pesare di più perché si sente più bella, come il caso di Simona, cioè aumentando di peso, che cazzo dici? Fermola. La zanzara. Anche a Marrakech si ascolta la zanzara. La zanzara. Todo cambia! D'accordo? A sinistra non c'è più gente come i dirigenti di una volta che avevano anche i calli sulle mani. Adesso a sinistra sono tutti fighetti come Parenzo, alto reddito. Che viene a romperci i coglioni a noi a 1000 euro al mese e che ci viene a dire dove è il bene e dove è il male. Ma no, romperci i coglioni, va. Caro Parenzo, tu sai che questa trasmissione è una trasmissione piedofila, è una trasmissione che parla spesso della fissazione, del feticismo dei piedi. Sì, della tua fissazione. Sì, la mia fissazione. A te non te ne frega nulla. No, no. Nulla. Come fa a non fregartene nulla dei piedi di una femmina? No, ma guardo, come fai? Come guardo, fai? Guardo altro, guardo ad esempio gli occhi, le, sì, le ma movenze, i piedi sono fondamentali. Le movenze, sì, delle mani, la postura, la, cioè, a te dei piedi non frega nulla. Della, la sessualità, della, la camminata, ecco, mi piace molto la camminata. Perché non sono le argomenti. Scarpe, per esempio, le scarpe non ti piacciono? Le scarpe non mi interessano, ma in generale non sono argomenti che io affronterei in una radio nazionale, per di più della Confindustria. Non ma è uno c'entra di quei temi. No, è non danni, lo so, lo dico per... È da anni che ci occupiamo, di questo. Io da anni, allora, mi dico, sostengo che non questi è il argomenti... caso di fa, che non è no, il caso di però farlo. Per carità, evviva. Evviva. Allora, qui abbiamo una persona che sì, è diventata negli anni, non so, credo anche suo malgrado, sì, una specie di l'ex ministro, l'ex no, ministro no, una persona che si chiama Marina, no, La Rosa, che è diventata la regina, cioè oggetto del feticismo dei piedi, possiamo, sì, dire così. Buona serata, ciao Marina. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Allora, io non ho capito... sì, hai detto bene, direi, diciamolo, mio malgrado, perché non sono una feticista, non sono una mistress, ci tengo a sottolineare. Cioè tu non hai mai, non hai mai sottomesso qualcuno con i piedi, mai? Allora, io, tanto per iniziare, so fare tante cose con i piedi. Cioè? Okay? Che sai fare? No, cioè che... no, no, aspetta, però... cade qualcosa a terra, io la raccolgo con i piedi, cioè mi è sempre piaciuto giocare con i piedi, ma da qui all'essere appunto una mistress, una che sottomette, no, la gente con i mistress, piedi, no, ecco, no. Però magari qualcuno no, ti ha chiesto, con tuo marito giochi di piedi, non ne fa adesso, tanto ma per essere... No, no, adesso, no, no. Ma no, come mai? È talmente straordinario. Con Rocco Casalino facevate giochi di piedi all'interno della casa del Grande Fratello? No, non chiedo, credo, perché così ci buttiamo sull'attualità politica, no, diciamo. Siete proprio due stronzi, comunque. No, voglio allora, sapere se Rocco, lei col portavoce del governo. Rocco Casalino, vabbè, ma non lo dico perché insomma Rocco Casalino, ci sono delle riprese che ormai risalgono ovviamente, sì, a 75 anni fa, sì, cioè il primo reality anche, in Italia, sì, il primo Grande Fratello, sì, dove, sì, lui effettivamente me li accarezzava spesso, sì, quello. Passava, infatti a questo li, facevo riferimento, li, esatto, esatto, però adesso accarezzerà di... quelli di Conte forse, no, non credo, no, ma non credo, non, no, non lo so, no, io non penso. Guarda, non secondo penso, me tra un po' sarà Conte che li leccherà a lui, Beh, questo ma potrebbe essere, sì, però poi effettivamente Sgarbi dice che Conte è una criptochecca, non so, no, cosa vuol dire carità, criptochecca, non è vero. Beh, si dicono tante cose. Si dicono tante cose, però anche io voglio tu, voi due ragazzi. Quello, cosa dai, si dica se su noi due? Sì, scusate, che siamo dei cialtroni, che siamo volgari. Vabbè, cioè, quello sì. Adesso io ti chiedo questa cosa, ho visto attentamente varie foto, io ho notato nelle foto un piccolo alluce valgo, cioè un inizio di alluce valgo, diciamo la verità, è vero o no? Guarda, questa cosa me l'hanno fatta notare anche in altri, cioè altre persone mi hanno scritto questa cosa, ma non è così perché è una... Attenzione. È una diciamo, è la forma del mio piede che mi accompagna da quando sono piccola. Cioè non essere un po' tortuoso, un po' tortuoso. No, è proprio così, molto definito. In realtà so, perché conosco persone che addirittura si sono operate di e come no, noi abbiamo parlato a lungo. Sì. Che dovrebbe insomma far male, dovrebbe far... Cioè, non lo so, io ho dei piedi che per fortuna... cammino scalza durante l'estate. Però sei sicura? Scalza, sei sicura? Controlla un po' se sono, non c'è la cipolla. Sicura, adesso controlla sicura, un attimo. Non c'è nessuna cipolla. Non cioè, c'è puoi, nessuna dare, cipolla. Puoi rassicurare il mondo del feticismo internazionale, mondiale, italiano puoi che ti segue. Tranquillo, non tu c'è. E tutti gli altri potete dormire sogni tranquilli. No, io dormo, no, io dormo tranquillo. Non ho l'alluce valgo e non ho nessuna cipolla. No, cioè qualcuno mi ha chiesto, non so, di farti... quelle cose forse un po' più spinte. Cioè ecco, di fargli una sega coi piedi, diciamo la verità. Oppure no, no. Oppure no, di, no, infilare il piedino, di infilare il piedino, no, nella... qualcuno è successo negli anni che mi ha chiesto di fargli una... Vai tranquilla, vai tranquilla. Non lo so perché, insomma... di fargli? E la, come si chiama? Si chiama la doccia dorata, mi sembra. La pioggia dorata, la pioggia, mamma, dorata. Mamma, Pissi, detta anche quindi lui si è seduto, si è accomodato, sì, in questa doccia e io l'hai fatto fatta? La pipì, ecco. Ma l'hai fatto, sì, tu? L'hai fatto? Sì, l'hai fatto? Mamma, questo mia, apre, mamma mia. Guarda, sì, mamma mia. Questo sì, però credetemi, con i piedi non avrei problemi a dirlo, insomma, mamma, perché no, perché però, hai, no, detto che hai fatto pissi, che figuriamoci che problema avresti a dire che hai fatto con i piedi. Mamma mia, che ambiente, ma ragazzi, poi non hai più fatto questo favoloso pissing, non l'hai più fatto, dico, dopo? No, no. Tu lo sai che è una mia fissazione, Parenzo, cioè prima o poi non l'ho mai fatto, prima o poi lo faccio, prima o poi lo faccio. Ottimo, prima o poi... a trovarti. Beh, adesso non esageriamo, adesso non penso che tuo marito sarà contento, non bleffare troppo, perché non penso che tuo marito sia contento se tu fai pissing su qualcun altro. Questa cosa, guarda, risale secondo me al 90. Vabbè, però l'hai fatta, amica mia. Ma pensa che ambiente, sì, sì, sì. Ma pensa che ambiente. Però, ma che male c'è, Parenzo? Ma niente, fatevi fare la pipì, ma cosa volete che vi dica? Io, ma non, allora, posso neanche, ragazzi, fatevi fare la pipì addosso. Posso aprire una parentesi mezzo seria? Secondo, sì, me, insomma, sono delle non voglio chiamarle patologie, però sono delle fantasie sessuali che hanno a che fare, insomma, con delle difficoltà, ecco. Per non dire così, però, che mi ammazzi tutto. Secondo me non sono patologie, sono delle perversioni che possono essere anche patologie, certo, se uno però vuole. Se sono molto spinte, evidentemente c'è qualcosa. Cioè, secondo da, te il pissing, secondo te il pissing è una cosa spinta? No, no, è la sottomissione. Ci sono delle persone che amano essere sottomesse, fondamentalmente perché, secondo me, nell'idea che mi sono fatta, perché loro in realtà nella vita sono dei grandi professionisti, sono delle grandi menti, però dunque questo era uno, diciamo, che è la visione psicologica, ovviamente, che vi sto dando. Sì. No, situazione... ma questo può essere, sì. Hai aperto un mondo e adesso io sto immaginando. No, aperto un mondo. Ti sto immaginando, come dire, in una posizione. Ma lui com'era messo in questa situazione, scusami? Lui era seduto. Ma squirtato mai invece? Squirting mai? No, io non squirto. Tu non squirti? Vabbè, che la diamo ai giornali questa notizia. Sì, diamola ai giornali. Non squirto, l'agenzia, non lo so fare. C'è una mia amica che mi dice che è una cosa che si impara, ma io non lo so fare. Sì. Qualcuno sostiene, e poi sì. Onestamente posso dire che non mi interesserebbe neanche, nel senso che poi non è una cosa che vai a ricercare. Se succede, succede, se no, no. Non occorre metterla nel curriculum, diciamo, questo. Quello no, certamente. Marina La Rosa, vengo da Messina e non squirto. esatto. Lo sai che allora Parenzo rabbrividirà, perché questa telefonata nasce da un commento che la signora Marina La Rosa ha pubblicato quando hanno sottratto, diciamo così, o quando una conduttrice della RAI non ha più trovato le sue scarpe nel suo armadietto. La signora La Rosa, qui presente, che sembra tanto gentile, carina, eccetera, eccetera, ha commentato ha commentato in questo modo. Vabbè, mettiamola così, più che associare il furto ad una donna sfigata che le abbia rubate, perché mancanza di prove non è deve scudere, purtroppo, meglio immaginare qualcuno che da ieri stia annusando le tue scarpe, e fin qui va bene, d'accordo, e ci stia venendo dentro, ci stia volgarità, per me sai, la volgarità è un concetto un po' vago, ci si accusa di volgarità, ma in realtà noi che senso ha questo, dipingiamo la realtà. Ho immaginato che l'unico che potesse spingersi a fare questo gesto è proprio un feticista. Beh, okay, ma venire dentro le scarpe, però attenzione, o sopra le scarpe, venire è una di quelle perversioni che ti hanno mandato, che ne so, ti mandano le foto con ci sono dei feticisti che mi scrivono in privato che vorrebbero tanto delle mie scarpe, mi scrivono tutta una serie di robe, insomma, cioè ti scrivono che vorrebbero venire sopra la fantasia degli altri, cioè vorrebbero venire sopra le tue scarpe, oppure magari ti mandano delle foto spinte addirittura con sulle foto che mi mandano, abbiamo un altro mondo incredibile, perché c'è gente che si mette a terra quasi proprio come un verme, pisciami sopra. Ragazzi, ma che ambienti frequentate? Calpestami. Abbracci, baci e abbracci. Ragazzi, viva i piedi. Comunque abbiamo capito che sessualmente non li usi, e questa è una grande delusione. Non li usi sessualmente. Esatto, purtroppo devo. Però pissing fu. Ciao, a presto. Ciao. Saluti, ciao, signora. Ciao. Grazie. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. A casa Rovazzi tutti super connessi con la super fibra Wind. Lo sentite? Questo rumore è Paolo che scarica un film. In un attimo. Questo è Dani che gioca ai videogame, senza sosta. E questa è Marta, felice perché si scarica un brano dietro l'altro. Scegli la super fibra di Wind a €25,99 al mese. Ho detto €22,99 al mese. €22,99. Dai, rifacciamola. Corri nei negozi Wind, chiama il 159, la promozione è valida solo fino al 26 gennaio. Verifica copertura, limitazioni e condizioni su wind.it. Allora, com'è là fuori? 10 gradi sotto zero e una terribile bufera. Neve e ghiaccio dappertutto. Tempo perfetto. Ok, GLC, questo è il nostro momento. Sfida l'inverno con la trazione integrale 4Matic del nuovo GLC. Oggi hai €4,000 di eco-incentivo Mercedes-Benz su tutta la gamma GLC. Se permuti la tua auto da Euro 0 a Euro 5. E con MyDrive Pass scegli la soluzione finanziaria più adatta alle tue esigenze. Scopri di più su mercedesbenz.it. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Follower, follower, per averne fotografi anche la presaola. Ma per la polizza auto ne basta uno. Serio, Zuri Connect ti offre una polizza da 220 euro. Essere online è una cosa seria. Zuri Connect, online, da 150 anni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su zuriconnect.it. La Zanzara. Sì, ciao, ciao a tutti. Guarda, mi hai fatto sentire quell'intemerata di Sgarbi contro le pro evasione fiscale, mi ha fatto girare ancora più i coglioni. Ma io, Giuseppe, sono incazzato nero perché l'altra sera, quando in tre siete andati contro Gottardo per difendere quel furfante di Sgarbi che da 30 anni che ti porta a casa soldi pubblici, ma uno col pedigree, uno col pedigree di Sgarbi, allora, uno con quel pedigree, quello c'ha due coglioni così Sgarbi, ad essere ma quali coglioni, ad essere messo su un piedistallo, essere riempito di cariche pubbliche, uno coi precedenti di Sgarbi. Ricordali tu, la storia di una persona è segnata dai precedenti, ma che sei, tra l'aglio? Il comune per mafia, lui era lui mafioso, cretino, non era lui il mafioso, imbecille. Ma vai a leggere che cosa diceva il ministero dell'interno! Vai a leggere cosa diceva il ministero dell'interno! Ma amica, sennò sarebbe stato accusato di mafia! Aspetta, fermo, cretino, fermo, fermo! Stai zitto, fermo, imbecille, fermo! Eccolo! Allora, caro David, in questa settimana abbiamo assistito anche ad un passaggio tra i mostri di Striscia la Notizia di un momento radiofonico favoloso di qualche settimana fa, cioè a dire Martani contro Vissani alla Zanzara, ai mostri, mi era sfuggito, ai nuovi mostri. Il luogo giusto del quale posizionarli, diciamo. Al quarto posto alla Zanzara, Daniela Martani e lo chef Vissani discutono sul veganesimo e finisce tutto in vacca. Gianfranco? Sì. Ecco, lo senti che ti ha detto questa qua? Vabbè, ma ormai ce le diciamo. Sì, non la dovete far parlare, ammazzate. No, ma non ti. No, ma adesso io lo denuncio, di nuovo. Ma di denunciali. Ammazzatela. Cioè, io mi sono zitto. Non hai ascoltato la trasmissione, sei una forza. No, l'ho ascoltata e come? Ascoltato. Peccato che ci sono i beep, hanno bippato la parte migliore. Però questo non si può dire, però. Ma hanno bippato la parte migliore questi qua. Io sono troppo. Ma intanto non ti permettere per tutto di portare rispetto a una donna, chiaro? Ma veramente, fai schifo! Ma fai schifo tu! Lei gli ha detto le peggio cose, troglodita, ignorante. Ma io gli ho detto stronzo, t'ammazzo. Scusami, ma come ti permetti tu? Pilla! Pilla, non sei un cazzo! Non ti permettere! No, non ti permettere tu! Non ti permetti, parla bene, parla, non troglodita! Un quintale, ma con chi cazzo stai parlando? Dai, insomma. Con chi cazzo stai parlando? No, ma non ha senso litigare così, chiedetevi una troglodita, sei tu! Ma che stai dicendo? Che non mangio carne da 30 anni? Smettila, sono viva e vegeta, ma vai a dimagrire, va, che sei obeso. Ma tu invece della patria nel culo. Smettila, va. L'impressione è che litighino a priori, ma anche a posteriori. La cosa più bella è vai a dimagrire, obeso, a battere la pianta nel culo, va. Pazzesco, veramente, ormai si è trasformato in un ring dialettico, è agghiacciante, guarda, veramente. Michele da Milano, vai, Michele. Irrimediabile. Michele da Milano. Cioè, può solo peggiorare. Ciao Michele, aspetta un attimo, c'è una cosa incredibile. Io ce l'ho con le ricerche universitarie, ragazzi, vi pigliano per il culo. Quando leggete qualche cosa sull'internet che riguarda ricerche universitarie, potete stare certi, sicuri, che serve solamente a far scrivere le persone o a fare qualche programma radiofonico. Senti questa qua, due economisti della Queen's University di Belfast. La Queen's University di Belfast. Allora, questi signori sostengono che quando il Papa arriva in visita in una città, gli italiani fanno meno l'amore. Come hanno fatto a fare questo studio? Tu lo sai perché hanno fatto un calcolo sulle nascite. Aspetta, non rompere il cazzo. Dai. Un calcolo sulle nascite. Un calcolo sulle nascite. Ah. Allora, quando il Santo Padre arriva in città per l'attesa visita pastorale, gli italiani fanno meno l'amore. E non rompere i coglioni. Ancora? Che cazzo. Non si tratta di un assunto. È la trasmissione che insulta anche il povero ascoltatore che chiama. Non si tratta di un assunto dogmatico e nemmeno di una chiacchiera da sacrestia. A questa singolare evidenza sono giunti due economisti appunto di questa cazzo di università. Sembra che la presenza del Papa induca negli italiani il senso di colpa per un eventuale aborto. No. E dunque scatterebbe l'inibizione autoindotta ai rapporti intimi. Ragazzi, ma come cazzo? Ma questi magari li pagano pure. Sì, secondo me li pagano, certo, sono professori universitari e fanno Stati ricerche. Uniti. Belfast, ma chi cazzo sono questi qua? Avanti. Pronto? Oh, e che palle. Michele, dai, forza. Dimmi. Ciao, volevo intervenire. Ma perché, un attimo perché ti intrometti politica... nelle cose? Ti intrometti? Stavamo parlando di intrometti. Comunque, dimmi, Michele, dimmi. Volevo un attimo intervenire sulla faccenda di Amadeus. Al di là delle frasi che hai detto, che possono essere giuste o sbagliate, ma secondo me sono educatissime. Volevo far notare che la televisione è un mezzo di informazione che si basa molto anche sull'immagine, al di là del festival musicale. Sì, non è che adesso, non è che tu adesso alle 20:38 ci devi dire che la televisione si basa sull'immagine, perché mi fai venire due coglioni così. Cosa vuoi dire su questa vicenda? Ci serve una certa presenza scenica, quindi è normale che non mettano due cose a presentare. Perché non se le caga nessuno altrimenti. Ma sì, amico mio, ma lo sappiamo. Ma non presentano, ma che cosa vuol dire? No, se no avrebbero fatto tutta questa polemica. Ma no, hanno fatto una polemica probabilmente sbagliata sul fatto che lui ha presentato queste cinque ragazze che ci sono come bellissime, come fosse la caratteristica principale, aggiungendo di più poi che la moglie di come si chiama lì? Di chi? La moglie di Ronaldo. No, ma l'ex fidanzata è tra l'altro. La fidanzata? Di Valentino Rossi. La fidanzata di Valentino Rossi. Ha fatto un passo indietro rispetto alla carriera del marito. Questa roba ma qua è indietro. No, così ha detto. Ha detto una frase leggermente inelegante. È semplicemente inelegante rispetto a una donna. Non è che vero. Cosa ne sappiamo noi? Ma se Valentino Rossi è un numero uno, ma non è che sia la donna che sta un passo indietro al marito. Dicono che il principe Filippo fa un passo indietro rispetto alla regina Elisabetta, nessuno ha mai fatto sta polemica. Ciao Michele, ciao. Allora io darei qualche soddisfazione a Parenzo, però, perché ogni volta la figa, prima abbiamo assistito a una straordinaria un professore sulla questione Corte Costituzionale che ha bocciato il referendum della Lega sulla riforma della legge elettorale. Ma figuriamoci che ce ne frega. Allora, prima abbiamo io ho ancora di fronte a me l'immagine di Marina La Rosa che piscia addosso a un suo fidanzato, così, ragazzi, io ho ancora questa immagine, però vorrei voltare pagina, non vorrei soffermarmi anche se ho davanti a me questa immagine meravigliosa Marina La Rosa e chiamerei il padre della Borgonzoni. Sai chi chiamerei? Il padre della Borgonzoni, l'architetto di sinistra voterà per Bonaccini. Ha donato dei quadri alle sardine. Il nonno della Borgonzoni sostanzialmente era un grande pittore comunista, chiamiamo, dai. Beh, sì. Sì, pronto. Signor Giambattista? Sì. Buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24. La disturbo? Mi dica. Senta, Architetto? Sono Parenzo, come sta architetto? Tutto bene? Ah, caro Parenzo. Salve, buonasera. Buonasera. Parenzo la appoggia molto, la apprezza molto. Io non l'ho mai incontrato, ma conosco poi la figlia da tanti anni, che è una persona molto per bene. Quindi mi sembrate il gatto e la volpe, voi due. No, per carità. Però l'architetto Borgonzoni mi è molto simpatico, posso dire. È un crimine dire che mi è molto simpatico. Però volevo sapere. No, ma io sono naturalmente simpatico, soprattutto ai macrocefali. E tutte le volte che incontro dei cani tipo bulldog, eccetera, eccetera, io mi affratello subito. Addirittura faccio faccio con i cani, facciamo la pipì sugli angoli. Voglio capire una cosa: nella politica italiana chi è che può essere assimilato a un cane? Cioè questo, seguendo un po' fuori la sua... di metafora, diciamo. Fuori di metafora. Ma fuori di metafora, quando vedo il panzone lì, Salvini, sì, mi chiedo una cosa: ma Salvini, sì, i diritti e le royalty ad Albanese, che nel 2008 ha inventato la figura del ministro della paura, ma Salvini li paga o no? Le paga o no? Dice. Bello, bella domanda, ha ragione su questo. È vero. Ma ministro Salvini, della paura, le royalty li paga ad Albanese, sì o no? Però io volevo contestare una cosa: che bisogno c'è di dare alle sardine i quadri della sua famiglia? Alle sardine, no, alcune cioè, opere d'arte di un grande pittore. Quanti soldi, che è il padre. Alla fine, quanti soldi ha dato tramutandoli in soldi questi quadri? No, io non entro in questo merito. In che senso? Diciamo semplicemente che ritengo che le sardine, a mio avviso, sì, portano una ventata di aria fresca nell'ambito della sinistra italiana. Ecco, ma sono i principali... E questo lo trovo eccezionale. Questi qua sono i principali nemici di sua figlia. Cioè, la considerano una sorta di pupazzo di Salvini. La considerano inesistente. Ma mi scusi, io le rispondo subito con una domanda. Sì. Ma... secondo il gatto e la volpe, sì, ascendenti e discendenti, sì, devono avere necessariamente le stesse, gli stessi orizzonti culturali? No, quello assolutamente no. Però scusi, lei le dà dolore, ma dal punto di vista ideale, no? Degli ideali e dei valori, cioè, le prova dispiace, dolore, immagino, il fatto che non vi vedete, so, immagino che non vi vedete da un sacco di tempo, almeno lei dice così, quello. Ma le dà dolore pensare che che sua figlia sia candidata a presidente di una regione? No, io penso, no, assolutamente non mi dà dolore, io penso che è persona molto borgonzoniana, per cui, scusate la supponenza, è persona di qualità. Se c'è un dramma in Italia, sì, è il familismo. Io dovrei ricevere praticamente dalle persone di cultura, di centro, di destra e di sinistra, una bella medaglia, magari una patacca di rame, per dire o che sei bravo, come a quanto sei bravo Borgonzoni, che rompi questo tabù del fatto che bisogna per forza orrendo del familismo. Il familismo sta distruggendo l'Italia, conto. Però scusi, ma io questo qua sono anche d'accordo. Scusi un attimo, è vero che non vi vedete, che non vi parlate da quando, lei l'ha detto, da quando lei aveva 5 anni? Questo è assolutamente falso. Ah, è una falsità. Quando è l'ultima volta? È una falsità. Quando è l'ultima? È una falsità. È una falsità a livello documentale, ma lei mi ha fatto una domanda, io giustamente le do la risposta. È falso, è dimostrabile. Se lei vincerà praticamente le elezioni, cosa più che possibile, sì, a lei pensa che il sia mio possibile, sarà uno dei primi telegrammi. Ah, ecco. Ossia, forse una telefonata potrebbe anche farlo. Non c'è problema, ossia. Non c'è problema. Non è un pericolo per l'Italia se vince la Borgonzoni, cioè se vince sua figlia. Perché molti dicono Salvini, nessuno dice che è un pericolo. Che sia un pericolo, ossia, guardi, il panzone, sì, Salvini. Il panzone è una persona che usa anche dei termini e delle allocuzioni che si richiamano al ventennio. Sì. Ma io credo che nonostante tutto il nostro paese possa resistere. Invece, scusi, la Meloni come la considera? Beh, posso dire una cosa: la Meloni mi è più simpatica. Ah, la Meloni è più simpatica perché è donna, perché per la vitalità che esprime. Ah, cioè, per la vitalità. Perché però è ruspante. La considera una fascista lei o no? Oppure non ha niente a che fare? Una fascistella. Una fascistella. Certo. Cioè, se vanno al governo Salvini e Meloni, lei che succede? Un disastro assoluto? Spero di non essere impiccato. Insomma, no, quello lo posso escludere. Spero di non essere impiccato perché, come dire, questo scandalo nel paese del familismo, per cui padre che esprime opinioni dissentienti, chissà cosa c'è di ma no, dietro, per carità nulla. Ma i padri non è necessario che abbiano un grande rapporto stretto con le figlie, possono anche pensarla diversamente nella maniera più assoluta. Un abbraccio. L'ultimissima cosa: se avete occasione praticamente di sentire mia figlia Lucia, sì, ditele semplicemente che provi un po' di umana vergogna. Perché cosa? Nel raccontare balle, tipo io non parlo più con mio padre quando avevo 5 anni. Questo è triste, però. Questa è una bugia sesquipedale. Questo è triste. Va bene, lo riferiamo, grazie. Sarà fatto. Sì, grazie, riferiamo. Grazie, arrivederci. Allora, siamo sicuri, caro Parenzo, siamo sicuri... Beh, è clamorosa questa cosa. Beh, sì. A me ha colpito molto umanamente, più che altro, questa vedi cosa. Vedi che ti ho accontentato, una bella intervista politica, Beh, politica non direi, però umanamente mi ha colpito molto questa cosa. A te no. Tommaso da Genova, ma che cazzo me ne frega? Tommaso da Genova. Italiani! Tommaso da Genova. Spettacolo, via. Tommaso buonasera. Da Genova. Dimmi. Buonasera, volevo parlare di un argomento che avete trattato molto in passato, ma che stasera non avete ancora trattato, ovvero cosa? Volevo parlare di marijuana. Di marijuana. Ma è una vita che parliamo di marijuana noi. No, di marijuana riguardo alla legalizzazione. Ma questo è un altro che tu sei fatto come la zampogna, te lo dico io. Ma ti piacerebbe? Ma no, ma non mi piacerebbe, ma la realtà, sento la voce impastata. Ma non c'è niente di male, tutti tossici italiani. No, fermo un attimo. Io non avrei nessun problema, ora di italiani! Fatto meno. Aspetta, allora dimmi. No, scusa. Allora, io semplicemente volevo dire questo. Purtroppo non c'è il signor Gottardo questa sera, col quale potrei aver avuto un ipotetico dibattito molto interessante. Dimmi. Semplicemente volevo dire, tutti questi che demonizzano la marijuana, dicendo a legalizzare la marijuana porterebbe a un popolo di scemi, eccetera, eccetera. Volevo dire che legalizzare non vuol dire incentivare al consumo. B, semplicemente facendo un parallelo tra l'Italia e l'Olanda, in Olanda la marijuana è completamente depenalizzata. Io ora non credo che l'Olanda sia un paese di scemi, di completi idioti. Detto ciò, ma guarda che con noi sfondi una porta aperta, amico mio, per cui non so che dirti. Cioè, è evidente che in Olanda non è un popolo che si è bevuto il cervello, e in altri paesi in cui è legalizzato, anche se in Colorado dicono alcune ricerche che sono aumentati i problemi. Ma non le so ricerche, di che Cruciani, le ricerche, te fai il giornalista, lo saprai meglio di me, le ricerche possono essere manipolate come uno vuole, uno può fare una ricerca su una cosa, un sull'altra, allora può dire quello che vuole con le ricerche. No, niente, semplicemente io non trovo il senso di demonizzare tutta questa, cioè di demonizzare con tutta questa forza la marijuana come se fosse un problema di Stato, eccetera, semplicemente per il fatto che io parlo da ragazzo consumatore, ok? Quante te ne fai? Senti come sale. Quante te ne fai? Come sale, senti. Senti come arriva. Senti come arriva la chiusura, sentila. Zitto, Tommaso. Dovete farmi parlare, per favore. Sì, Tommaso, quante te ne fai, t'ho chiesto? Senti la chiusura, sentila. No, io semplicemente non le conto. Il mio consumo lo definisco un consumo modico. Tipo può essere che io in una settimana faccia 4 canne in una settimana. Quanto? Per dire. Quante? 4 canne in una settimana. 4 canne, vabbè, senti, 4 senti canne in una sale, settimana. È il modello Parenzo prima no, della sua. Canne a settimana non sono ma mai fatti io 4 settimane. Fermi tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono pronte per essere munte.